Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte. Bentornati ad Ondivago, bentornati sulle onde del nostro programma radiofonico. Ondivago salpa per trasportarvi ancora lungo le sue rotte, alla scoperta di nuovi territori culturali e sperimentazioni acquatiche e sonore. Ondivago è un programma settimanale in italiano e in francese. La parte in italiano resta preponderante, senza rinunciare alla rubrica nella lingua di Voltaire, tenuta da Anna Raffaella Farao a fine mese. Il nostro progetto si conferma quindi di carattere europeo, trasmesso sul web e diffuso in FM nel cuore pulsante del continente, in Belgio, da Radio Prima. Alla parte tecnica possiamo contare ancora su Alessandro Gianotti, che ha messo a disposizione i suoi studi di Torino per la realizzazione del nostro programma. Nel corso di questa nuova serie attraverseremo vari tipi di produzione radiofonica, come nello stile di Ondivago, naturalmente eclettico, calmo e impetuoso come il mare. In questa prima puntata del 2012 vogliamo ripartire dai suoni. Viviamo nella civiltà dello spettacolo e l'immagine ha ormai oscurato molti aspetti sensoriali della realtà. Per noi che facciamo ed ascoltiamo la radio, il compito è quello di riconoscere ed isolare la voce delle cose. Sì, perché le cose hanno una voce che pare chiamarci e comunicarci dei messaggi. Gli oggetti, quindi, questi ammassi di atomi assortiti, probabilmente vivono di vita propria e quando dormiamo se ne vanno in giro per la casa. In maniera un po' meno colorata di un cartone disneyano, ma sempre in giro, comunque se ne vanno. Fanno attenzione a non farsi vedere, fanno capolino dagli armadietti. Durante il giorno tutte queste entità si parlano, ma noi pensiamo che si tratti soltanto di rumori inanimati. Così, in questo breve racconto che vi farò, quasi un tema da scuola elementare, ho incluso alcune di queste vocine. Vocine bistrattate e continuamente tacitate per un non precisato benessere. La cosa che ho notato e che esse preferiscono dialogare con esseri umani che non ci sono più e farne emergere la memoria sonora. Ma non voglio dirvi altro. Ad Ondivago, la voce delle cose. Questa mattina la sveglia è suonata alle 8, impietosamente puntuale. Alzandomi, ho notato che avevo ancora alcune bottiglie di plastica da buttare. Ma prima di farlo le ho schiacciate e ho avvitato il tappo per ridurne il volume. Questa operazione mi risulta sempre molto gratificante. Sì, la saprebbe fare anche una scimmia, lo so, ma ogni volta mi pare sia frutto di una mia incredibile capacità manuale. Pochi secondi dopo sono andato in bagno e ho aperto il rubinetto. Spreco troppa acqua, ho pensato. Lavandomi il viso, ho tentato di riprendermi e calarmi nel lunedì mattina. Ho cambiato una decina di volte i canali della radio. Leggo di... Ad un certo punto mi è arrivato un messaggio. Era un avviso. Il tuo credito sta finendo. Ricarica al più presto per non rimanere senza parole. Ho acceso il gas e ho messo la caffettiera sul fuoco. Sul mio mobile di metallo rimangono i ricordini con la foto di mio nonno, Damiano Ponte, scomparso nel luglio dell'anno scorso. Prima che partisse, ho registrato la sua voce, la sua flebile voce in piemontese. E ora mi pare che le sue parole si diffondano da questo cartoncino piegato in due. Piegato come un libro sonoro per bambini. Un libro dal retrogusto amaro. Sì, adesso vado da lei perché devo... Dai. Sì, glieli do. Non mi racconti niente. Zio è venuto a trovarti. Sì. Zio. Sì. E non ti ho mai abbozzato di piccoli. Non stavo mio. Mi fa così e mi rende più male. Sì. Io sono andata a sepolcere quello che è morto. Ma chi? Zio? No. Una parente, no? Ma guadagna a me. Ma che cos'è? A tagliare. Ma che gli cosa mi da te? E mi cura una cosa. Ti vedo adesso. È arrivato adesso. C'è sempre lei. Sì, c'è il tempo. Dai, sarò lì. Sì, è tutto chiuso, non ti preoccupare. Ma poi lei, no? È arrivato un bullo. Avrei potuto fare di più per lui, e questo rimpianto mi rimarrà appiccicato addosso. Ma la mia giornata deve proseguire. Prendo il mio caffè coi biscotti, mi faccio una doccia. Mi vesto, mi metto le scarpe, esco. Prima di andare al lavoro, devo fare un po' di spesa. Scendo al negozio di alimentari sotto casa. Si tratta di alimentari per lo più biologici. Non che sia un estremista del biologico, più che altro sono un ritardatario. E quello è il negozio più vicino. Metto direttamente qui, dimmi solo. Ok, 7 centesimi. 2,7 centesimi. Sì. 2. Aspetta, che non so se sto vivo, te ne do 10. Grazie. Voilà. 1,18 euro. La città è tutta in fermento. A Torino, il lunedì mattina, tutti vogliono fare tutto, come se dovessero rifare l'Italia. Ma il martedì la città è già più quieta e gli impiegati vanno verso un rallentamento progressivo che li condurrà al venerdì pomeriggio, in cui molti di loro usciranno prima. Ad ondivago, la voce delle cose. ondivago.com. I miei passi sotto i portici. Io lavoro in un museo e sebbene il lunedì il museo sia chiuso, gli impiegati sono colti dalla stessa iperattività degli altri uffici cittadini. Rispondo alle chiamate che arrivano. Registro il personale, controllo che non entrino personaggi non autorizzati. Uscendo dal lavoro passo alla stazione a vedere gli orari del treno per Milano. Il treno regionale 10194 di Trenitalia delle ore 19 proveniente da Savona è in arrivo al binario 5. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Nel fine settimana vorrei visitare un altro luogo d'arte, il Museo del Novecento, che non ho mai visto. Custodisce molte opere dei futuristi e la cosa mi alletta molto. Arrivato a casa ho sentito Shinya, il mio amico giapponese, artista di Hiroshima. Ciao Shinya, sono Max. Ciao, come va? Bene, tu? Bene, bene. Stai mangiando? Sì, un po'. Un po' qualcosa. Niente, ti volevo salutare e poi ti volevo dire che se ci sei ci vediamo la prossima settimana, magari giovedì o venerdì. Venerdì ci filtra, anche giovedì non lo so, forse Milano. Ah, ok. Scrivere a giovedì, ma ancora non... Ci risentiamo comunque. Io mercoledì, come così se... mercoledì sentiamo, se è possibile giovedì. Aprendo il frigo l'ho trovato più vuoto che mai. Parlare dentro il frigorifero. Così ho cucinato del riso con la carne rimasta in congelatore. Non è ancora cotto comunque. Mettiamo un po' d'acqua. crackers. Se c'è una cosa che odio è lavare i piatti. I piatti sono lì, mi guardano, defuntissime nature morte che le mie mani non riescono a raggiungere. I piatti sono dei dischi volanti malvagi, scesi nel mio lavandino per tormentare l'umanità. Adesso mettiamo i guanti e vediamo di lavare questi piatti. Dai, forza, ce la posso fare. Vediamo quante ore ci impiegherò a lavare questi piatti. Gravali li sto rompendo. In serata ho deciso di fare un po' di pulizia e mettere finalmente ordine fra i miei papiri. Questo lo tengo, questo lo butto. La ditta, o meglio il servizio che raccoglie la carta in città, si chiama Cartesio. Cosa molto interessante a livello filosofico. Pensate un po'. Buttare i libri di Cartesio nel cassonetto di Cartesio. Che assiale coincidenza. Rumori della carta. Carta vince, carta perde. Finalmente sono riuscito a raggiungere il letto e prima di addormentarmi leggo una delle poesie a me più care. Si intitola Le stirpi canore di Gabriele D'Annunzio ed è contenuta nella raccolta Alcione. I miei carmi sono prole delle foreste, altri dell'onde, altri delle arene, altri del sole, altri del vento argeste. Le mie parole sono profonde come le radici terrene, altre serene come i firmamenti, fervide come le vene degli adolescenti, ispide come i dumi, confuse come i fumi confusi, nette come i cristalli del monte, tremule come le fronde del pioppo, tumide come le narici dei cavalli al galoppo, labili come i profumi diffusi, vergini come i calici appena schiusi, notturne come le rugiade dei cieli, funebri come gli asfodeli dell'Ade, pieghevoli come i salici dello stagno, tenui come i teli che fra due steli tesse il ragno. Ondivago vi dà appuntamento alla prossima puntata. Potete riascoltare questo numero e quelli precedenti visitando il nostro sito www.ondivago.com. Ascoltate anche voi la voce delle cose. Ondivago.com.